17:02 minuti, buongiorno Popolare Network dagli studi di Radio Popolare di Milano, una puntata speciale di Popline dedicata a tutte e sono davvero tante le manifestazioni organizzate dai vari coordinamenti locali del Genoa Social Forum per protestare contro quanto è avvenuto a Genova. Il primo collegamento è già qui con noi al telefono dal Canal Grande a Venezia, Liliana Boranga di Radio Base. A Piazzale Roma stanno concentrando decine e decine di migliaia di persone che parteciperanno a questa manifestazione. Ci sono le bandiere, ci sono i sindacati, ci sono le bandiere dei DS, ci sono i ragazzi, ci sono i pacifisti, c'è la rete di Lilliput. Non ho ancora visto nessuno in divisa. 17:22 minuti, il prossimo collegamento è con la manifestazione di Firenze. C'è Chiara Brilli, pronto? Sono qui davanti alla prefettura di Firenze dove dalle 17 è iniziato il concentramento dei manifestanti. Stiamo raggiungendo le 2000 persone e oltre e nel giro di pochi minuti andiamo proprio a Genova con Roberto Festa. Ovviamente qui c'è già parecchia gente, però il sit-in deve ancora, diciamo così, ufficialmente iniziare. Allora, un colpo d'occhio sul piazza De Ferrari, sono arrivato circa 10 minuti fa, avrei detto che c'erano 1500 persone. Nel giro di 10 minuti la piazza è più che riempita. Adesso praticamente da Carlo Felice fino all'edificio della fondiaria la piazza è totalmente piena, si fica a camminare. Penso che saremo non meno di 3.500-4.000 persone. Lo ricordiamo, la piazza dei Ferrari è quella del retro di Palazzo Ducale. Se una giornata di sole hanno anche dovuto chiudere, per esempio. E da Genova a Novara la linea ad Alessandra Rognoni, buongiorno. Ciao Lorenza, molte persone hanno sul braccio la fascia nera in segno di lutto e qui per terra, proprio sulle pareti attorno al comune, è pieno di cartelloni con foto, c'è anche un cartellone con la foto di Carlo Giuliani morto a Genova con anche dei fiori. 17:39 minuti, Popolare Network si sposta a Pavia, abbiamo il telefono Sisto Capra della provincia pavese. Il presidio è qui davanti al tribunale, ci sono circa 200, forse anche di più, persone, ci sono le bandiere dei pensionati della CGIL, ci sono le bandiere di Rifondazione Comunista, ci sono i manifesti. Il prossimo collegamento è con Roma, c'è la nostra Anna Bredice, buongiorno Anna. Sono ancora tutti in Piazza Esedra, il concentramento era alle 7:30 e la piazza è già molto piena, piano piano la testa di quello che sarà il corteo si sta dirigendo ad est della piazza, perché poi da lì prenderà via il corteo. C'è una piazza che non avevamo nel nostro elenco ed è Livorno. Al telefono abbiamo Giacomo Romboli che fa parte del coordinamento locale del Genoa Social Forum. Per favore. Pronto? Pronto? Romboli, sei in diretta su Radio Popolare, Popolare Network. Allora, ciao a tutti, siamo qui, siamo partiti, adesso siamo almeno 3.000 persone, stiamo sfilando per il centro cittadino, iniziano a cantare degli slogan. Popolare Network, e adesso andiamo a Lucca dove c'è la nostra Donatella Francesconi, pronto? 300 persone in piazza grande a Lucca davanti alla prefettura, ma altre persone stanno arrivando. La globalizzazione di Scaiola, Italia uguale Cile, è lo striscione di Arci, nuova associazione, assassini invece quello dei giovani comunisti. Andiamo a Brescia dunque, per noi al telefono con noi c'è Osvaldo Squassina della FIOM di Brescia, buongiorno Squassina. Buonasera a voi. Allora, Brescia, piazza della Loggia. Sì, è da pochissimi minuti che è iniziata, diciamo, la manifestazione, si sta molto riempiendo, ci sono tantissimi ragazzi e tantissime ragazze, ci sono dei lavoratori metalmeccanici ma anche di altre categorie, ma la cosa davvero... Ci spostiamo a Trieste, in Piazza Unità, per noi c'è Edi Pernici, pronto? La tensione sui fatti di Genova eccetera è molto alta in città. Abbiamo continuato a ricevere telefonate tutto il giorno che chiedevano appunto cosa si fa, dove, come ci si muove. Si inizierà con un sit-in davanti alla prefettura che si trova appunto in piazza. Inviata per un giorno un'ascoltatrice di Radio Popolare, si chiama Marta e ce l'abbiamo in linea da Cremona. Ciao Marta. Ah, ciao a tutti. Noi siamo di fronte alla prefettura. Saremo un 200-300 persone, non di più, ma per una città come Cremona io in 23 anni non ho mai visto così tanta gente scendere in piazza, associazioni animaliste, ambientaliste di Cremona, a movimenti come l'Arci, ci sono anche delle parti di cattolici, anche se in effetti le bandiere rosse sono quelle che più saltano agli occhi. Ok Marta, allora buon corteo, ciao. Grazie mille, ciao. Ciao, grazie a te, ciao. Grazie ascoltatrice di Radio Popolare Marta. E la prossima invece è Lucia Manassi di Radio Città del Capo di Bologna, ciao Lucia. Sono molte persone in Piazza del Nettuno, direi che siamo sulle 3.000-3.500 e il corteo era previsto partisse verso le 18. Davanti a me c'è un ragazzo sandwich che ha scritto con un pennarello azzurro su fondo bianco: Presidente Ciampi, aiuto, giustizia e libertà. Lo striscione di apertura del corteo, che dovrebbe essere Scaiola, dimettiti, ancora non l'abbiamo visto, quindi è possibile che il corteo partirà tra un po' di tempo. Si stanno facendo le prove di megafono. E adesso andiamo all'estero, ci sono alcune manifestazioni. Una è davanti al consolato italiano di Barcellona. Con noi in linea c'è Davide, pronto? Siamo qui di fronte al consolato con circa, a mio parere, 700 persone. Si sta simulando l'attacco, l'assalto alla polizia. Ci sono dei ragazzi che stanno lavorando al computer mentre altri dormono in un sacco a pelo. Ci sono dei ragazzi vestiti di nero con dei manganelloni tipo clave. Sirena partita la carica. Sentite. Hanno picchiato, hanno rotto il computer. I computer sono tutti rotti, le persone nei sacchi a pelo picchiate, c'è sangue per terra, ovviamente finto per fortuna questa volta. La gente viene portata via, urlando. Polizia, siamo noi. Polizia, assassina. La messa in scena è finita. Da Barcellona a Bolzano c'è il nostro collaboratore Giovanni Giacopuzzi. Ciao Giovanni. Qui addirittura la polizia non esiste, non c'è. Ieri sera c'è stata una riunione velocissima attraverso le persone che sono state, le persone che sono rimaste. È stato coniato una sigla chiamata Bolzano Social Forum, tanto proprio per dare l'idea dell'appoggio totale politico al Genoa Social Forum, attaccato oltretutto l'ultima sera in modo brutale, in modo anche simbolico, che dava la misura appunto dell'obiettivo di questa strategia pianificata. Numerose persone, diciamo che è veramente una piacevole sensazione vedere Bolzano, una città molto tranquilla, diciamo anche morta a volte, che invece comunque ha dato questo piccolo scatto di orgoglio. Grazie Giovanni Giacopuzzi. Dall'Alto Adige al Trentino, da cui ci chiama un altro nostro ascoltatore, si chiama Paolo e ci chiama da Trento. Pronto Paolo? Qui ci sono un migliaio di persone divise in realtà in due piccoli cortei. C'è un piccolo corteo di anarchici di 200-300 persone al massimo che sta girando per la città, diretto penso verso il palazzo del governo. E invece c'è una catena umana di persone organizzata penso dalla rete Lilliput, piuttosto che le associazioni che da Trento sono partite per andare a Genova. E da Trento, torniamo a Genova, dove c'è il nostro inviato Angelo Miotto. Ecco, ci siamo qui nella piazza dei Ferrari, è cominciato il vero e proprio sit-in, sono davvero tante persone sedute, parlando Monica Lanfranchi, sta facendo un discorso sulla città ferita e sulle ferite che riportate poi dalle persone, un discorso di pace, di amore, quello che sta facendo, questa è la risposta della piazza che vi lascio ascoltare. Colleghiamo con Pisa, pronto? Noi in realtà stiamo facendo una manifestazione che è riuscita benissimo, siamo in migliaia, stiamo sfilando lungo i lungarni di Pisa, i lungarni sono colmi di gente, c'è una partecipazione davvero di massa della cittadinanza che è scesa indignata per quello che ci è successo al G8, con il network per i diritti globali, con Rifondazione, con studenti universitari. In diretta da Forlì abbiamo Francesco Giorgini, pronto? Sì, io sono appena arrivato sulla piazza del Duomo di Forlì. Lì ci sono una quindicina di persone con delle magliette insanguinate con scritto tornato da Genova, che sono quelli che penso fossero nel corteo di sabato. Ci sono gli striscioni con stop alla violenza, stato assassino. Ci sono anche un po' di persone con i bambini, io ho portato anche Romeo. Leggo sangue rosso, ossa rotte, sulla democrazia è calata la notte. Grazie Francesco Giorgini. Da Forlì a Massa Carrara, Mario Bacigalupi di Contatto Radio. Ciao Mario. La situazione qui in Piazza Aranci a Massa è molto tranquilla, ci saranno 350-400 persone, ma mi sembra stanno arrivando ancora persone. Ieri c'è stato un presidio, diciamo, per dare l'inizio a questo. Da Massa Carrara a Taranto c'è Ilario di Primavera Radio. Ciao Ilario. Io mi trovo al Palazzo della Provincia, alla prefettura di Taranto. Ci sono due gruppi distinti e separati. Da una parte ci sono i COBAS, dall'altra invece ci sono Rifondazione di Esse, Legambiente, Pacifisti, eccetera. Tante, insomma, tante migliaia di persone a Roma, ce lo facciamo dire da Anna Bredice. Migliaia, migliaia, ancora non si fanno delle stime, ma si superano le 20.000 persone. La testa del corteo è alla fine di via Cavour. Sentiamo come sta andando la manifestazione a Bergamo. Abbiamo il nostro corrispondente Enea Guarignoni al telefono. Ciao Enea. Ciao, buonasera a tutti. La manifestazione sta andando bene, nel senso che ci sono, direi, 400-500 persone in ordine sparso. Come in tutta Italia, anche qui è una cosa assolutamente nuova. Infatti troviamo nel Bergamo Social Forum le ACLI e i giovani del Pacipaciano, insomma. E l'Odi oggi è più sveglia, lo chiediamo a Carlo. Sì, oggi è molto più sveglia. Lo era anche nella presenza della manifestazione di Genova. Si sta svegliando un movimento anche nell'Odigiano. Adesso c'è la necessità di istituire un forum permanente per iniziare ad informare com'è andata realmente la manifestazione del Genova. Con la carrettera, cammino sin fermo. Buonasera da Lorenza Ghidini, abbiamo in linea Federico Bogazzi di Contatto Radio di Massa Carrara che ci racconta della manifestazione che c'è stata alla Spezia. Ciao Federico. È iniziata alle 17.30 con un concentramento in Piazza Brin, nella centralissima Piazza Brin di La Spezia. Un corteo inaspettato. Tra le 4 e le 5.000 persone hanno preso parte. 4 minuti, Popolare Network è il momento di Milano, da Piazza Duomo, Cecilia Di Lieto. Milano si sta riscaldando, pian piano all'arrivo delle vagoni metropolitana escono decine di persone che arrivano in una piazza che è al momento ancora totalmente disorganizzata. 21 e 14 minuti, Popolare Network, erano in 5.000 a Brescia in Piazza della Loggia in manifestazione. Adesso invece ci spostiamo a Treviso. Buongiorno, buonasera, anzi Agostino Villanova. Siamo in Piazza Borsa a Treviso, una delle piazze principali di Treviso. Quanta gente più o meno? Più di un centinaio di persone seduti a manifestare, più molti simpatizzanti che stanno attorno, un po' di curiosi, un po' di polizia, non molti. E da Torino, da Piazza Albarello, credo, Gianluca Gobbi. Sì, esattamente da Piazza Albarello stanno arrivando i manifestanti, alle 21 era fissato il concentramento, ma grosso modo il corteo dovrebbe prendere le mosse intorno alle 10. Pescara, Lorenzo Calamosca di Radio Città, pronto? C'è già tantissima gente, siamo sopra le 500 persone, ricordiamo appunto il concentramento fissato alle 21.30. Sicuramente è una cosa fuori dal normale per Pescara, tutta questa gente qui. Torniamo a Torino, Gianluca Gobbi. Sì, sta prendendo le mosse in questo momento il corteo da Piazza Albarello, stiamo giungendo nella centralissima via Cernaia. Il primo coro urlato dai manifestanti contro lo stato della violenza ora è sempre resistenza, oltre a ritmare il grido assassini che si sta sentendo in tutte le piazze italiane. Assassini! Assassini! Assassini! Assassini! Assassini! Noi torniamo a Milano, abbiamo al telefono il nostro direttore Piero Scaramucci, buonasera. Pronto, buonasera, io ti sento pochissimo perché qui c'è un gran baccano in Piazza del Duomo a Milano. Io sono arrivato da poco, c'è una bella piazza, il sagrato è pieno, poi dei baffi di gente da una parte verso la galleria, dall'altra verso Piazzetta Reale, però qui non si sa cosa si fa. Qui la gente sta, chiacchiera, c'è qualche bandiera, poche, e la gente è presente. La cosa buffa è che sul Duomo, sui gradini del Duomo, ci sono una, due, tre, quattro file di persone, sono tre, quattro file di gente assiepata che guarda la piazza, e la piazza guarda queste persone, e tutti sono qui e parlano, chiacchierano, e la gente